Spesso ci si chiede se nell'educazione è giusto spingere molto, cercare di portare l'educato, magari il figlio, l'allievo, a sforzarsi davvero tantissimo, oltre alla propria zona di comfort, oltre alla propria abitudine. Se è meglio dire, ok, basta che prendi un voto, diciamo così, discreto, va bene. Oppure no, devi prendere 10, devi prendere 30. Qualche anno fa negli Stati Uniti, una professoressa della famosa università Yale, sera Graziano, prego. Una professoressa della Yale. Buonasera a tutti. Porta aperta? Come vuoi. Lasciamo aperta. Scrisse un libro, lei è di origine cinese, nata negli Stati Uniti ma di origine etnia cinese, e scrive un libro proprio su questo. Descrive come nella cultura cinese si spingono i bambini fino al massimo delle loro possibilità. Non esiste che vieni a casa senza un 10, non esiste che non rispetti tutte le varie, tutti i vari, tutte le varie materie, no? Non esiste che, vabbè, a te piace pianoforte, fai pianoforte, a te piace calcio, fai calcio, anche fuori dalla scuola. Devi fare tutto, tutto quello che si deve fare, devi fare, e lo devi fare bene. Lei racconta che la sua figlia, quando aveva 6 anni, non gli piaceva fare il pianoforte. Voleva lasciare le lezioni di pianoforte. La madre ha trasformato la casa in una zona di guerra. Non ti sposti da lì finché non finisci la lezione. Non ti alzi dalla seggiola. Quando non funzionò, la madre minacciò la figlia che gli brucerà la casa delle bambole, per dire proprio cose estreme. Alla fine ha continuato con le lezioni e non ha più lasciato il pianoforte, è diventata bravissima. Cioè, la conclusione di questo libro è che... Ci sono, aspetta. Dietro sullo scaffale grande. Secondo la conclusione di questo libro è che noi stiamo sbagliando quando nel mondo occidentale non spingiamo i bambini abbastanza. Diciamo, vabbè, fai quello che piace a te, fallo finché è possibile per te, eccetera. Tutto questo, secondo questo modo di vedere le cose, è sbagliato. Cosa ne pensa la Torah? Avete trovato? Cosa ne pensa l'ebraismo? Cosa ne pensa la Torah? Bisogna sempre spingersi oltre quello che sembra sia possibile, oppure bisogna essere un po' più aperti, più liberali, diciamo. In linea, diciamo, come si vede le cose nel mondo più occidentale. Allora, nella parasha che leggiamo questa settimana troviamo qualcosa che è legato a questa discussione. Questa settimana noi leggiamo due parashiot, Behar e Bechukotai. L'inizio della seconda delle due, Bechukotai, parla di molte benedizioni che HaKadosh Baruch Hu ci riserva, con una condizione: in Bechukotai telechu, se camminerete sulle vie delle mie chukot. Cosa sono chukot? Chukim, chukot. Leggi letteralmente, allora darò la pioggia e tutta una serie di benedizioni, eccetera, eccetera. La terra darà il suo prodotto. Il versetto dice: in bechukotai telechu, se seguite i miei statuti, le mie leggi, ve et mitzvotai tishmeru, e osserverete le mie mitzvot, i miei comandamenti, allora ci saranno tutte le conseguenti benedizioni. Ma non è una ripetizione. Oh, allora Rashi dice, A cosa si riferisce quando dice chukot? Se già ha detto, se già subito dopo dice mitzvot, delle mitzvot già ha parlato, quindi a qual è il riferimento delle chukim, delle chukotai? A che cosa si riferisce? La Torah non si ripete a vuoto. E Rashi dice, ora vediamo su cosa si basa, ma prima citiamolo, Rashi dice il significato di bechukotai telehu, camminate sulle vie delle mie, dei miei statuti, significa shetiyu amelim batorah, che vi occupate con sforzo dello studio della Torah. Amal significa fatica, amelim vuol dire faticare. Se faticherete nell'occuparsi della Torah. Normalmente chok significa uno statuto, anzi, significa proprio quegli statuti, quegli aspetti della Torah che sono poco comprensibili o incomprensibili alla mente umana. E ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della mitzvah, della purezza e dell'impurità e tutto ciò che si lega alla tuma, alla tara, che non è una cosa razionale, non c'entra con l'igiene, è qualcosa che trascende qualsiasi tipo di comprensione umana. E normalmente questo è definito come chok, uno statuto che non è, che ha una logica divina, non una logica umana. Qui invece Rashi, in questo contesto, spiega il chok come l'esatto contrario, una cosa che tu devi faticare per capire, cioè devi faticare. Cosa significa faticare nella Torah? Faticare nella Torah significa fare dei sacrifici a livello mentale, approfondire più di quanto pensi di approfondire, o studiare più di quanto credi potevi studiare, o a livello di quantità, a livello di qualità. Quindi è un esercizio intellettuale questo, è una fatica con la mente, una fatica nello studio, che voi conoscete bene la fatica nello studio. Allora la Gemara sta, la Rashi sta dicendo che questa fatica nello studio va applicata alla Torah, ed è a questo che la Torah si riferisce quando si dice Bechukotai Telehu. Dove si esprime in particolar modo questo concetto della fatica nello studio, nella Torah in particolare? Troviamo riferimento a questo nel Talmud. Talmud, nel trattato di Chagigah, dice che bisogna differenziare o vedere la distinzione tra un qualcuno che serve a Kadosh Baruch Hu, il termine che la Gemara usa è Oved Elohim, colui che lo serve, la Asher lo Avado, è colui che non lo serve. Cosa significa? Sì, la Gemara sta citando una fonte precedente che dice questo e spiega cosa significa. Oved Elohim, colui che serve a Kadosh Baruch Hu, è colui che studia 101 volte, ripete lo studio. E chi non serve a Kadosh Baruch Hu è colui che ripete il suo studio solamente 100 volte, non 101. Cosa significa? Sembra una cosa molto strana. In realtà, se vediamo un attimino il contesto, non è così strana. Voi sapete benissimo che la Torah Shebealpè, la Torah orale, non sempre la trovavamo messa per iscritto come troviamo gran parte oggi. La Mishnah, i Midrashim, tutto questo era trasmesso oralmente. Allora lo studio consisteva in molta ripetizione. Proprio la modalità di studio era diversa dalla modalità di studio che conosciamo noi oggi, perché bisognava moltissimo ripetere. E lo standard in determinati contesti era 100 volte ripetere. Ma visto che questo era lo standard che seguivano in tutte le scuole, non era considerata una fatica, era considerata la cosa normale. Chi ripeteva 101 volte, non è importante la quantità, è importante il fatto di andare al di là della propria abitudine. La cosa alla quale sei abituato non cambia, non è importante quanto è difficile, quanto è facile, è l'abitudine. L'abitudine significa che lo fai quasi in automatico. Andare oltre l'abitudine è lì il punto che definisce il fatto che si tratta di una fatica, di uno sforzo, di qualcosa che hai dovuto fare in più rispetto a quello che sei abituato appunto a fare. Al di là dell'abitudine, usa il termine Yoter mi regilutò, al di là di più della sua abitudine, appunto. Allora Rashi, quando il superamento della natura, certo, sì, che dall'altra parte il riflesso è il miracolo. Ok, va bene. Oh. Sì, è un altro concetto, non... però sì, bello. Cioè tu esci dalla tua natura e HaKadosh Baruch Hu dimostra qualcosa che esce, tra virgolette, dalla natura che lui ha impostato. Molto bello, bella osservazione. Chazak. Possiamo fare la sì, vogliamo di fare la lezione in memoria sì, di... Siamo con il Nadinepi, Shabbatai, settimo sermoneta, e riceva Badiamante Moscata, e l'Imlochat Nefesh Alisa Cohen, Renato Piperno, Roberto Nefesh, Roberto Bracci, e Nefesh, Belina Salmoni, Belina Salmoni, e Rav Israel Nefesh, Rav Israel Friedman. Ok? E che sia lì lui Nishmatam. Ora, Rashi con questo sta dicendo che il concetto di studiare Torah è diverso dal concetto di studiare qualsiasi altra materia. Normalmente quando si studia, e voi che, alcuni di voi che andate all'università, si studia per ammassare informazioni, per avere più informazioni rispetto a quello che si aveva prima. E con queste informazioni si cercherà di fare qualcosa. Detto proprio... Ora... Rashi sta dicendo, studiare Torah non ha come scopo il raccogliere informazioni. Studiare Torah ha un altro scopo. Studiare Torah vuole fare di te una persona diversa attraverso il fatto che tu per studiarla ti devi sforzare. Devi fare qualcosa in più rispetto a quello che sei abituato a fare. E questo è l'effetto che la Torah ha sulla persona. Non ha importanza, non che non ha importanza, ma messo sulla bilancia, in un certo senso ha meno importanza la quantità di informazioni, anche di Torah, che riesci a raccogliere nella tua mente, rispetto alla qualità, il cambio di qualità che avviene in te nel momento in cui devi andare oltre quello a cui sei abituato. Ci si chiede da dove Rashi trae questa idea e la lega proprio al Bechukotai, e questa domanda la pone uno dei grandi maestri commentatori Or HaChaim, che molti chiamano Or HaChaim HaKadosh, chiamano il sacro, il santo, Or HaChaim Rabbi Chaim Ben Attar, un grande tzaddik che commenta tra l'altro la Torah. Per quale motivo la Torah qui parla del... Se la Torah si sta riferendo alla fatica nello studio, perché lo chiama chukah, perché lo chiama con questo termine? E inoltre bisogna un po' approfondire qual è il senso di questa cosa. È chiaro che Rashi non ha inventato questa idea. Si basa sugli insegnamenti dei Chachamim in precedenza. In particolare vorrei citare un pezzo della Gemara abbastanza famoso nel trattato di Megillah, dove dice: se qualcuno ti dicesse non ho faticato, anzi inizia così, se qualcuno dicesse io ho faticato ma non ho trovato successo, ve l'ho ammazzati, non ho trovato, non sono riuscito, altamin, non crederci. Conosci questa? Non crederci. Che significa non crederci? Vuol dire che non hai faticato abbastanza. Se avessi davvero faticato, avresti trovato qualche successo. Se qualcuno dicesse, non ho faticato, ma ho trovato successo, non crederci lo stesso. Non crederci nemmeno, perché evidentemente quel successo non è un vero successo, se non è il prodotto di una fatica. E poi conclude, Yagati, Umazzati, se ho faticato e di conseguenza ho trovato successo, allora ci puoi credere. Ora, la Gemara dice questo e poi conclude. Questa seconda parte pochi la conoscono. La prima è molto famosa. La seconda, dice la Gemara, quando si è parlato di fatica relativa a un successo, o meglio, un successo relativo ad una fatica, si sta parlando della fatica nello studio della Torah. A questo ci si sta riferendo. Per ciò che riguarda invece il successo nel mondo materiale, questo dipende da un aiuto dal cielo. Significa, la Gemara sta dicendo, nel mondo materiale non sempre è così lineare. Ci potrebbe essere una fatica che non risulta in un successo e ci potrebbe essere un successo che non è il risultato di una fatica. Quante persone sono persone di successo a livello materiale, benestanti, ricche o comunque che non è frutto di una fatica che può in qualche maniera giustificare quel tipo di successo? Una grandissima percentuale. Hanno ereditato. Eredità oppure qualche tipo di, tra virgolette, fortuna, no? Che è successo così, è capitato che ho incontrato questo, ho visto quello. Vai a vedere un po' di biografie di grandi ricchi a livello mondiale, eccetera. Molte di queste storie sono così. Certo, dopo che è successo lo attribuiscono alla propria grande saggezza, ok? Sì, perché ho pensato così, ho fatto così, però se vai a vedere bene la storia spesso viene fuori che lui non c'entra niente. È successo. Allora la Gemara dice, per cose materiali, non è detto, serve siata di shmaya, un aiuto dal cielo. A volte può esserci, a volte è diverso. Nello studio della Torah dipende dalla tua fatica. Quel detto che abbiamo citato prima. E il Maimonide Rambam scrive che le parole della Torah si mantengono, rimangono presso di chi? Scusate che qui stiamo mangiando, però qui dice non da quelli che studiano mentre mangiano tutte le buone cose, bevono, ma chi studia anche quando sta in difficoltà, anche quando, soprattutto quando deve faticare, sforzarsi molto per quel studio, quello studio, quando deve tenere gli occhi aperti perché vorrebbe dormire e nonostante ciò rimane sveglio e studia e si sforza, eccetera, eccetera. La Torah si mantiene in coloro che sono pronti a sacrificarsi per la Torah, in un modo o in un altro. Perché? Perché deve essere così difficile? Come la domanda che ci chiediamo sempre su molte cose, effettivamente. Qual è il problema se c'è uno studioso di Torah che per natura gli va di studiare? E per natura magari ha una buona mente, è un intelligente, riesce a conoscere molte cose, ad approfondire molto bene. È una cosa così terribile? Cosa c'è di così male? Allora, per cercare di approfondire un po' questa cosa, vi cito un altro aneddoto che è citato nella Gemara. Dovete sapere che il periodo in cui ci troviamo ora, che è il periodo tra Pesach e Shavuot, il periodo in cui contiamo, abbiamo la mitzvah di contare l'Omer, e contiamo i 49 giorni, il 50° giorno è Shavuot. Ok. Tra le varie cose, questa è una sulle quali sulla quale c'è stata una grande discussione tra i maestri tradizionali che hanno sempre trasmesso la Torah con la Torah orale, quindi con l'interpretazione che trasmette a noi qual è il senso di quello che è scritto nella Torah scritta, e tra un gruppo che storicamente si è opposto a queste interpretazioni, i famosi Tzidukim, Sadducei, che erano soprattutto prevalenti nel periodo del secondo tempio, Beit HaMikdash, e per contestare l'autorità e il potere quindi che stava in mano ai Chachamim, che trasmettono la Torah con la Torah orale, hanno contestato la Torah orale e hanno cambiato il senso di alcune mitzvot basandosi sul letterale, sulla lettera scritta, piuttosto che sulla tradizione trasmessa. Questo era già prima dei Karaiti o sono loro? Prima dei Karaiti. Karaiti è un altro diverso gruppo, simile per questo punto qui, ma diverso, più tardo. In particolare, appunto, parlavamo di questo periodo. Omer. Conteggio dell'Omer. Da quando si inizia a contare l'Omer? Seconda sera di Pesach. Benissimo, quindi il giorno dopo, il giorno dell'uscita dall'Egitto, 15 di Nisan siamo usciti dall'Egitto e il 16 di Nisan si inizia a contare l'Omer, ok? C'è scritto nella Torah, il 16 di Nisan bisogna iniziare a contare l'Omer? No, Non c'è scritto questo nella Torah. C'è scritto nella Torah Mimachorat Shabbat. Fasi un bicchiere per fuori. Mimachorat Shabbat. Dall'indom. Stai tranquillo. Dall'indomani dello Shabbat. Grazie. Dall'indomani dello Shabbat. Tisperu conterete 50 yom, 50 giorni. Cosa vuol dire da indomani dello Shabbat? Sembra di indomani dello sabato, del giorno di sabato. Allora vuol dire siamo usciti dall'Egitto. Il primo sabato che ci viene incontro, la domenica, l'indomani del sabato, iniziamo a contare. Quindi può cambiare ogni anno che giorno è la data dell'inizio del conteggio dell'Omer. I Chachamim hanno trasmesso, fin dai tempi di Moshe Rabbeinu, che non è questo il significato del versetto. La parola Shabbat in ebraico significa riposo. Il contesto che si parla è il contesto di Pesach, e in questo contesto la Torah dice Mimachorat Shabbat, l'indomani del giorno di riposo, cioè del Moed. L'indomani di questo giorno di riposo di cui stiamo parlando, che è Pesach, quindi il secondo giorno di Pesach, che non è Moed. Primo giorno è Moed, secondo giorno è Chol HaMoed. Va bene che adesso noi abbiamo due giorni fuori da Israele, ok, però si parla nel contesto che c'è un giorno. L'indomani è Chol HaMoed, è il primo, secondo giorno di Pesach, si inizia a contare. E quindi abbiamo sempre contato l'Omer dal secondo giorno di Pesach in poi, come facciamo sempre. Però se parti dal 16 Sivan e levi 50 giorni comunque... Se parti? Dal 16 Sivan e levi 50 giorni comunque torna il secondo giorno di Pesach. Però Shavuot non deve essere per forza il 6 di Sivan. Hai fatto un'osservazione buona, però... Non è valida perché... È conseguenziale il fatto che... Sì, 50 giorni. Bravissimo. Il fatto che Shavuot venga il 6 di Sivan, possiamo dire, virgolette, è quasi un fatto di coincidenza. Non è una coincidenza, però è come se fosse una coincidenza, perché a differenza di, di Pesach e di Sukkot, dove la Torah indica una data in cui inizia la festa, per Shavuot non indica una data. Per Shavuot dice, quando sarà Shavuot? Dopo che hai contato 50 giorni dal secondo giorno di Pesach. Significa che Shavuot, in realtà, poteva, prima che il calendario fosse fissato come lo è ora, poteva capitare il 5 di Sivan o il 7 di Sivan, in base a quanti giorni ci sarebbero stati nel mese di Nisan e nel mese di Iyar. Perché ogni mese ebraico, quando si fissava il mese a secondo della visione della nuova luna, si faceva il Kiddush HaChodesh, la santificazione del mese, di mese in mese, ogni mese poteva avere 29 o 30 giorni. Quindi se erano tutte e due di 29, Shavuot sarebbe stato il 7 di Sivan, se erano tutte e due di 30 sarebbe stato il 5, se uno è il 29 o il 30 sarebbe stato il 6. Sono sempre 50 giorni, però la domanda è quale data verrà fuori dopo 50 giorni? Se abbiamo Nissan che finisce a 29 giorni e anche Iyar che finisce a 29. Ma quanto giorni noi mesi? Bravissimo. Ma 29 più 29 fa 40. È vero che tu proprio questo sto dicendo. Tu conti i giorni, Studiato. Ma quale data del mese verrà fuori? 58. Ah, ho capito. La data del mese dipende da quanti giorni ci sono nel mese. I giorni che tu conti sono sempre quelli. Per questo dico che sia il 6 di Sivan non ci interessa in questo contesto. Allora, la Gemara racconta. I Tzidukim, i Sadducei, volevano invece interpretare più letteralmente e dire Mahorat Shabbat, l'indomani dello Shabbat, significa l'indomani del giorno sabato, non l'indomani del Moed. E quindi iniziare a contare l'Omer dal giorno di Shabbat, il primo che capita dopo che inizia Pesach, domenica sarà l'inizio dell'Omer. La Gemara lo dice nel trattato di Menachot. E descrive una situazione in cui ci fu una sorta di dibattito e di discussione aperta tra i maestri dei Sadducei e i maestri dei Chachamim. C'è scritto che Rabban Yohanan ben Zakkai, uno dei più grandi Chachamim, disse a questi che interpretavano in questa maniera, disse, dove l'avete tirata fuori questa cosa? Li chiamò Shotim, Shoteh. Sì, Da dove avete tirato fuori questa nuova interpretazione? Su cosa si basa? Quali sono le vostre fonti? Dice, non c'era nessuno tra di loro che gli poteva dare una risposta coerente. A parte un loro anziano che disse, ma poi non è che lo disse, la Gemara lo dice in maniera interessante, me patpet che negdo. A volte tu dai una risposta chiara, a volte tu tipo parli tra te e te e cerchi di far capire a quell'altro, no? Come dire, in qualche maniera balbettava davanti a lui. Parpigliava. Qualcosa di questo genere, è un termine interessante. Allora ha detto così, questo anziano sadduceo, ha detto, Moshe Rabbeinu amava gli ebrei, Ohev Yisrael Haya, era un amante degli ebrei. E sapeva che il Moed dura un giorno solo, il Moed, la festa solenne, come si dice a Roma, cioè il Moed, dura un giorno solo. Allora ha istituito che questa cosa avvenga il giorno dopo lo Shabbat, in modo tale che il popolo ebraico possa riposare per due giorni. Che possano avere il weekend, sabato e domenica. Fare ponte. Se siccome gli voleva bene agli ebrei, gli ha fatto fare il ponte. Allora, ascoltate cosa risponde Rabban Yochanan. Rabban Yochanan ben Zakkai risponde, se Moshe Rabbeinu davvero amava gli ebrei, perché li ha fatti girare 40 anni nel deserto? Aspetta un attimo. Non è così chiaro. Sì, sì, sì, sì, però era ovviamente era una risposta provocatoria, però non è tanto comprensibile a prima vista, perché se si inizia a contare l'Omer domenica, ok? Allora anche Shavuot verrà di domenica. Quindi vuol dire che sarà Shabbat e domenica due feste, perché Shavuot è l'unica festa che è solo un giorno. Pesach abbiamo una settimana di vacanza, Sukkot abbiamo una settimana, Shavuot è solo un giorno, che si chiama anche Atzeret Shavuot nella Torah, no? Atzeret è solamente un giorno. Cioè se iniziamo a contare l'Omer di domenica, Shavuot stessa verrà di domenica, così abbiamo Shabbat e domenica, almeno invece di avere solo un giorno abbiamo due. È una cosa simile. Allora, per due volte. Eh? Per due volte. Perché per due volte? Perché la prima è il primo giorno dei Moed. Sì, ma loro no, sì, ma non iniziamo. In più l'ultimo che è Shavuot che viene dopo. Il primo giorno di Moed è un giorno. Che è domenica. Non è domenica, può essere qualsiasi giorno della settimana. Loro dicevano, aspettiamo la domenica per iniziare a contare l'Omer. In modo tale che Shavuot capiterà di domenica. Esatto, e in questo modo avrebbero avuto due ponti, fra virgolette, quello di Pesach, perché c'è sabato Pesach, e domenica. Pesach è un ponte, è una settimana di vacanza, non è un ponte. E in più, iniziando a contare da domenica, avrebbero avuto dopo 50 giorni. Esatto, però quello che ti sto dicendo è che Pesach sarebbe stato comunque vacanza. Non hanno guadagnato un giorno durante Pesach, quando si inizia a contare l'Omer non diventa festa. Okay. È comunque Pesach, ok? Hanno guadagnato, tra virgolette, quando viene Shavuot, che è solo un giorno di Moed, che è l'unico Moed che è solo un giorno, che l'indomani sarebbe stato domenica, che il giorno stesso era domenica, e ieri era Shabbat, così hanno due giorni. Ok? Cosa risponde Rabban Yochanan ben Zakkai? No, Moshe non amava gli ebrei. Voleva che loro faticassero, che loro lavorassero. Hai visto, per 40 anni li ha fatto tribolare. Cioè, non è una risposta normale, no? Perché questa risposta? Allora, questo stiamo cercando di vedere. Il Rav, dove nella yeshiva di mio figlio ad Anversa, si chiama Rav Shabbatai Slavatitsky. Lui ha raccontato, da giovane lui ha studiato in una yeshiva molto famosa a Gerusalemme, si chiama Kol Torah. Non so se avete sentito. Rav Oyerbach, uno dei grandi, ho raccontato una volta di lui. Ha visto uno dei suoi compagni di studio, uno dei suoi amici nella yeshiva, che un giorno passava, un altro giorno, un po' di giorni passavano, un po' di tempo, che era molto depresso, triste. Alla fine l'ha beccato e l'ha detto, ma che ti è successo? Cos'hai che ti disturba? E l'amico gli ha aperto il cuore, gli ha detto: guarda, io davvero sono molto triste, molto depresso, perché sembra che fatico nello studio e non è che riesco chissà che cosa, anche se ci metto davvero, ce la metto tutta, però alla fine evidentemente non sono così dotato, non sono così intelligente. Invece ecco, guarda, ci sono questi altri ragazzi che non devono faticare per niente e prendono i voti più grandi e diventano grandi chachamim, eccetera eccetera. Dice, sono loro che diventeranno i Gedolei Israel, i grandi studiosi di Israel, e io con tutta la mia fatica sarò un semplice ebreo come tutti gli altri. E veramente era aveva il cuore spezzato dentro, era depresso, era... Allora questo suo amico Rav Shabbatai Slavatitsky dice: guarda, capisco il tuo senso di malessere, di... secondo me dovresti scrivere, anche se era una yeshiva non hasidica, detto, scrivi una lettera al Rebbe di Lubavitch, che si sa che lui ha sempre modo di dare speranza, di dare forza. Vedi cosa dice. Questo era negli anni 70. Ha detto, vabbè, non niente da perdere. Scrive una lettera, gli spiega tutta la problematica che lui sentiva, eccetera. Che poi per lui era un tipo di problematica non solamente personale, ma anche più generale, come dove sta la giustizia? Non è più giusto che la fatica sia pagata rispetto alla cosa che gli viene facile e poi è lui che arriva all'apice. Non è giusto. It's not fair. Allora ricevette una risposta, una lettera dal Rebbe. E il Rebbe gli scrisse ciò che in quel momento per loro, in quel contesto, era una grandissima novità. Gli scrisse: non c'è, non so le parole esatte, però il contenuto, non c'è nessuna mitzvah di essere un gadol be Israel. A nessuno viene data una mitzvah, tu devi essere un grande capo, tu devi essere un grande maestro. Non c'è una mitzvah così. Non è che ogni ebreo deve per forza arrivare alla perfezione. La mitzvah che l'ebreo ha è di incamminarsi, di iniziare un percorso e di sforzarsi di arrivare al di là delle proprie abitudini, come dicevamo all'inizio, al di là delle proprie presunte possibilità. Puoi sempre spingerti un po' oltre quello che credi è il massimo che puoi fare. Questo è il tuo compito, e questo è il compito di ognuno di noi. Non è che c'è un punto di arrivo al quale bisogna arrivare per forza, se non ci arrivi non vali niente. No, questa è una cosa immaginaria, non esiste. Quello che invece esiste, il punto di arrivo che sta dentro di te, che tu credi sei arrivato, sforzati per andare oltre. Questa è la cosa che devi sempre fare. Quello che è il metro visto dall'esterno non è valido per te, non è valido per nessuno. Il metro lo devi mettere dentro di te, lo devi misurare dentro di te. Cosa significa? Che il metro che cosa misura? Non misura la perfezione, non misura l'eccellenza, misura lo sforzo. Misura la fatica, l'impegno. Questo è quanto il metro misura. Di nuovo, non l'eccellenza e non la perfezione. Non è un metro giusto quello, effettivamente, come diceva giustamente quel ragazzo. Lì non c'è giustizia se misuri la perfezione. Non è quello il metro. Non è quello il parametro, diciamo, in relazione al quale bisogna misurarsi. Allora, con questo... tornando al modo di fare cinese, in certo senso la Torah non accetta quel modo di fare, almeno non per intero, nel senso che non dice che tutti devono arrivare al massimo di tutto. Bisogna arrivare più, faticare per arrivare più di quello che ti senti a tuo agio, esci un attimo fuori dal sentirti a tuo agio. Quindi secondo mettiti in ballo, metti in ballo, mettiti in dubbio, superati, dimmi. Quindi secondo il Rebbe, secondo la Torah, sì, questo ragazzo in realtà ha compiuto il suo dovere. Esattamente, se faticasse, siccome lui era un ragazzo che faticava, allora il metro da usare per misurare il suo impegno era quello. Non guardarsi davanti a un altro, che magari tu arrivi al numero 3 con tanta fatica, quello arriva al numero 10 senza nessuna fatica, sei tu che sei arrivato più di lui. Perché è lo sforzo, esattamente. No, quello che cerchiamo non è di arrivare al numero 10, quello che cerchiamo è che ci si sforzi. Però nel trattato precedente diceva che lo sforzo è equiparato al risultato nella Torah. La domanda è: cos'è il risultato? Questa è la domanda. E proprio per questo abbiamo aggiunto quest'altra citazione. Il risultato non è quanti trattati conosci a memoria. Il risultato è quanto sei cambiato tu, perché in base a quanto ti sei sforzato. Quindi lo studio della Torah, di nuovo, e questo è molto importante, non si può limitare solamente appunto a quanto so, quanto conosco e quanto capisco. Se così fosse, allora non c'è molta differenza tra lo studio della Torah e lo studio di qualche altra materia, dove tu misuri la bravura in base appunto a questi parametri qui. Nella Torah i parametri sono diversi. Nella Torah potresti avere uno che conosce tutto il Talmud a memoria, ma se non mette in atto, o se non diventa una persona migliore, o se non è quello studio un veicolo per legarsi a chi ha dato la Torah, cioè ad HaKadosh Baruch Hu, su un certo aspetto potresti dire chi ha studiato un trattato, ma si è legato fortemente ad HaKadosh Baruch Hu attraverso questo studio, è arrivato molto oltre quello di quanto non è arrivato quell'altro che ha studiato tutto il Talmud, ma è più una cosa accademica che mitzvah. Però in questo okay? caso lui ha superato se stesso sì, nello studio. E questo... Questo ragazzo che scriveva? Esatto. Sì, certo. Però questa cosa gli ha portato malessere. Perché? Perché aveva il metro sbagliato. Aveva il metro sbagliato. Quando gli è stato chiarito, guarda che stai usando il metro sbagliato, allora ha capito che non doveva essere depresso. Però il metro sbagliato che vuol dire? Che questo ragazzo sarebbe dovuto uscire dalla yeshiva? No, comunque perché? Avrebbe dovuto affrontare qualcosa. No, grazie, tipo di esempio, che ne so, uno che mira a Sharim c'ha molte più semplicità rispetto a Shabbat, rispetto a uno che magari ha iniziato a studiare da giusto poco. Capito? Cioè il risultato l'obiettivo è sempre lo stesso, però il mio impegno non può essere paragonato a quello di uno Sharim che magari c'è nato e c'è cresciuto con questa, però come una persona che mangia kasher, ok? Chi c'è nato non è uno sforzo, invece chi magari sì, che è inutile che ti paragoni a quello che esatto. Ha Sharim allora sei nel posto sbagliato. Perché sei nel posto sbagliato? No, non sei nel posto sbagliato, c'è effettivamente una mentalità diversa. Sta nel tuo, ognuno è nel suo posto, e questo è il punto, che non c'è un posto con le... Non c'è un posto. Certo. Quando Rashid dice dovete... ascoltate un attimo. Quando Rashid dice bisogna faticare, che Bechukotai Telechu significa bisogna faticare nella Torah, non è venuto a dirci guardate che dovete avere una vita difficile. Dovete faticare, dovete impegnarvi, dovete sforzarvi. Al contrario, ci sta dicendo che a prescindere del livello del proprio intelletto, parliamo di studio, ok? Adesso osservanza è simile, è giusto l'esempio che hai portato, però il contesto stiamo parlando di studio. A prescindere del livello della tua comprensione, a prescindere di quanto in profondità sei disposto proprio come preparazione di arrivare, al di là di questo... Non è questa la cosa importante. La cosa importante è quanto impegno ci metti. Significa, questo è un'incitazione, è qualcosa che ti dice, tu credi di fare poco? Non necessariamente è considerato poco, dipende come lo fai. A quel ragazzo è stato detto, non... Guarda, è meglio che esci da Shiva perché tanto non... No, al contrario, esattamente al contrario gli viene detto. È bene che rimani e studi per quanto puoi, perché più ti sforzi e più rientri nel concetto vero di studiare Torah, che significa uscire fuori dalla propria abitudine. E l'abitudine è relativa alla persona, non è obiettiva, è una cosa soggettiva. Però comunque la relazione con i risultati concreti, al di là della... Dipende quali sono i risultati, no, quali devono essere i risultati. Però al di là della questione con Akadosh Baruch Hu, riguardo allo studio di Torah, al massimo impegno più... E il 101. Mm-hmm. Però a livello materiale, cioè in questo, mondo, sì, non c'è una soddisfazione. Perché questo ragazzo, nonostante lui avesse dato il 101, lui non trovava la soddisfazione che andava cercando. La soddisfazione è in base all'aspettativa. Perché cosa vuol dire non trovava? Non trovava significa aveva un'aspettativa e non ci arrivava. E quindi ha dovuto abbassare il target. Allora la domanda è... Cosa è il target, in effetti? Qui stiamo dicendo non che devi abbassare il target, ma che il target è un altro. Ma che devi trovare il tuo target. Il target è proprio un altro. Significa, per esempio, non so se l'ho raccontato una volta in questo contesto, in qualche lezione l'ho raccontato. C'era un signore, una coppia, avevano un figlio. Il figlio era molto viziato. Allora il padre decide un giorno devo dargli un'educazione a questo ragazzo, devo fare un po' strofinare, un po'... Come? Pizzone. Sì. Pizzone. Allora dice al figlio, guarda, non tornare a casa domani finché non guadagni 50 euro. Raccontato già? Sì, sì. Ok, lo racconto di nuovo. Tu c'eri, bracci. Sempre bello. È bellissima, ma poi funziona anche in questo contesto qui. Allora, cosa fa il bambino? Era molto intelligente. Mamma, mi dai 50 euro? Certo, bello mio, ecco. Va bene, torna a casa con i 50 euro, ecco papà. Il padre prende questi 50 euro e li butta dentro il fuoco, dentro il camino. Il figlio lo guarda strano, dice, che gli ha preso papà oggi? Vabbè, gli ha preso così. Domani si sveglia la mattina, non tornare a casa senza che hai guadagnato 50 euro. Mamma, mi dai 50 euro? Seconda volta, la stessa cosa, arriva a casa con i 50 euro, boom, subito nel camino si bruciano nel fuoco. Strano, vabbè. Terzo giorno il padre parla con la madre, e dice, guarda, così e così e così. Ok. Arriva il bambino, va dalla madre. Mamma, mi dai 50 euro? No, mi dispiace, oggi non posso. Non ce l'ho, non posso. Mamma qui, mamma lì. Papà ha detto non tornare a casa senza 50 euro. Allora dopo scuola va al supermercato, dà una mano a fare qualche consegna, a chiudere qualche scatola, a fare qualcosa, va da un'altra parte... Cerca tutte mille cose per fare qui un euro, qui un altro, qui. Finché arriva la notte che si è guadagnato davvero questi 50 euro. Arriva a casa. Papà, ecco 50 euro. Il padre prende i 50 euro e fa per andare verso il camino. No, papà, che fai? L'ho guadagnati. Cosa stai facendo? Ah, li hai guadagnati. E quegli altri? Allora significa, la Torah ci sta dicendo qual è il parametro. Il parametro è non il quanto hai guadagnato, ma il come l'hai guadagnato, il come ci sei arrivato. Quel ragazzo vedeva l'aspettativa è questa, io sono arrivato al 50%, sono un fallimento. Sono fallito. Il Rebbe gli ha spiegato, non è questa l'aspettativa. L'aspettativa è al di là dello standard. Quale standard? Il tuo standard, che è relativo a te. Mettici la fatica, automaticamente c'è il guadagno. Perché dal momento che vai oltre il tuo standard personale, hai già guadagnato qualcosa. Sei già cresciuto. Ed è lì che si crea quell'anello che poi crea una catena che ti lega a chi ha dato la Torah, a chi ha dato le mitzvot. Ma quello che intendo dire è che, sì, nonostante, proprio prendendo l'esempio del del ragazzino, avesse faticato il 101 e avesse portato a casa 2 euro, questi 2 euro a questo bambino non gli bastano per mangiare, a soddisfare il proprio ego personale. Nonostante lui avesse dato il 101. Ok, di nuovo bisogna definire qual è l'aspettativa, qual è il parametro. Ma non riesce a mangiare. L'aspettativa era del padre, non era la sua. Per il ragazzo di 20 anni l'aspettativa è fare 50 euro, per il ragazzo di 10 l'aspettativa è farne 2. Sì, ma sì, è relativo. Non sono sufficienti a sostenerti, nonostante tu. Cosa sarebbe sì sufficiente? Parliamo di cose materiali. No, esatto, perché non stiamo parlando di una cosa materiale. Cosa sarebbe sì sufficiente secondo te? Lo studio nella yeshiva non è come uno studio in università per conseguire un titolo di un certo tipo per poi lavorare in un certo ambiente. Non si studia... E se vuoi fare semicà, no. Va bene, però lo studio in yeshiva di per sé... Non deve essere quello il tuo primo obiettivo. No, ma non lo è. Normalmente per la maggior parte delle persone che lo studio in yeshiva, o in genere lo studio della Torah per un ebreo, non è legato a un titolo, non è legato a... cioè una persona che studia la Torah è come una passione, è come una cosa che si fa perché un ebreo studia Torah. E allora perché... Non è legato a un titolo specifico. E allora perché c'è bisogno di un parametro all'interno della yeshiva stessa? Dici il 100 volte lo 101? No, proprio perché perché è necessario dare un giudizio allo studio di una persona. Beh, allora diciamo così, la disciplina serve. No. La disciplina è necessaria, specialmente per persone giovani, per bambini, per ragazzi. Poi è vero che quando si arriva a un certo livello di studio, è vero che non ci sono parametri. Il Kollel, cioè l'istituto di studio alto di Torah, molto spesso non ha parametri simili a quelli che esistono in istituzioni di livello più basso. Dove c'è più... livello, diciamo così, o esperienza o impegno, serve meno questo tipo di disciplina perché c'è un'autodisciplina. Però per accedere al Kollel bisogna avere dei buoni voti dal basso. Certamente. E allora? No, è questo il punto. È proprio questo il punto. Non tutti sono destinati al Kollel. Cioè, io anche questo è vero. Se io ho 101 in mezzo, ho fatto un mazzo così, al Kollel non ci arrivo. Ma non è questo il punto. Allora, il punto è che magari tu stai destinando al Kollel e magari il tuo livello, il tuo Kollel è il collegio rabbinico. Posso dire una cosa? Graziano, se tu stai cercando di dire che non tutti possono arrivare allo stesso livello e frequentare le stesse istituzioni... Sono d'accordo con te? No, io sto cercando di dire... Sono d'accordo, non è detto che tutti dovessero... No, io sto tentando di dire che il 101, nonostante si possa dare il 101, non dà soddisfazione a se stessi in alcune cose. Perché il tuo 101 non è quello. Il tuo 101 è un altro 101, giusto? In che senso? Non è che il 101 è sempre l'apice. Cioè, se uno che parte dal basso... Uno che ha zero, allora l'uno è... È il metodo dell'impegno. Questo... Cioè, sì. Il massimo impegno, quello, cioè l'ambizione che uno ci deve avere, se uno parte dal basso, non è per forza. È che loro erano tutti soddisfatti se si usa il esterna. Vero. Ma necessariamente, cioè, questa lezione. Sì, ma la Torah ti insegna che se tu ti rapporti agli altri, cioè ti confronti con gli altri soltanto per una tua crescita personale è positiva, ma se lo fai soltanto per dire il piatto di quello è sempre più pieno del mio è... No. Io credo che molto semplicemente si può riassumere con è una questione di livelli, cioè questa lezione per noi è di altissimo livello, ok? Poi se magari la porti al capo rabbino di Gerusalemme non è... È una lezione è questo, più... Però per noi è il top, per noi. Non è, io sto parlando di sforzo. Per noi questo... Sforzandoci a questo livello. Ma lo sforzo è relativo a un obiettivo. Lo sforzo è relativo, è quello che sto dicendo. Esatto, anche. se io sforzo, mi sforzo 101... E non raggiungo l'obiettivo. Il tuo 101. Il tuo obiettivo e il tuo 101. Il tuo non può essere che la decisione. La stessa domanda che... No, il mio obiettivo che è il mio. Il tuo obiettivo che è il tuo. La stessa domanda che ci faciamo. Qual è l'obiettivo? Che in base pure alle tue capacità, l'obiettivo. Esattamente, cioè, l'obiettivo sì. Relativo a te, in base alle tue possibilità, alle tue capacità, alla tua comprensione, tutto quello che vuoi. Cioè, se io penso, tutto ciò che voglio. Io penso un'altra cosa, che l'obiettivo, da come lo dice lui, non si può dire qual è l'obiettivo, perché se abbiamo detto che l'obiettivo è superare l'obiettivo, allora non c'è l'obiettivo. Questa è un'altra cosa. Ma se non riesco a arrivare manco all'obiettivo, come faccio a superare l'obiettivo? Appunto, allora, l'obiettivo. Di nuovo ci chiediamo, qual è l'obiettivo? Cioè, l'obiettivo è quello a cui riesci ad arrivare sforzandoti al massimo, non è quello che tu dici voglio diventare un astronauta. Il punto non ci posso è che è diverso dal bravo, pensare hai fatto studio... una buona metafora. Cosa? Rifalla. Non è che dici voglio diventare un astronauta e fisicamente non lo puoi fare, allora sono fallito perché non posso diventare un astronauta. Hai creato un parametro troppo elevato, o comunque elevato o non, fuori della tua possibilità. Ma in generale non è un tipo di studio che ti permette di dire, se io adesso da qui a 20 anni mi chiudo tutti i giorni a studiare, arrivo a quel livello. Cioè, esatto, non è questo, bravissimo. Un punto ed è quello il tuo punto, cioè se ti sei dato un punto più alto, magari è un errore a prescindere. Ovviamente uno studio universitario cose no, del io genere. Io sto parlando proprio di se stessi, cioè se... il mio 101 o tutto lo sforzo che riesco a fare non mi soddisfa, cioè non sfama il mio ego come non soddisfa, il 101, allora forse significa che non sei ancora arrivato al tuo 101, non è il 101 o allora. Non ci sei arrivato, oppure devi forse devi sforzarti ancora di più per sentirti soddisfatto. È vero, perché se c'è una mancanza di soddisfazione potrebbe essere un'indicazione che puoi fare di più. Quello che se hai ancora sete vuol dire che forse non hai bevuto abbastanza. Quello che sta tentando di dire è che il 101 non corrisponde alla propria felicità personale. Il 101 è un nonostante esempio. Il 101. Abbiamo detto questo qui, cioè era quello che aveva detto all'inizio, che a livello di cose materiali questo può essere così perché... tot fatica non sempre okay. Ha tot successo perché ci vuole un intervento divino. Parlando invece di Torah, cioè arrivi a quello a cui puoi arrivare. No, pure però cioè non no, il punto è che il concetto di felicità è molto labile, nel senso sì. Che sì. Per te la felicità no, felicità, torniamo a felicità, soddisfazione. Anche il concetto di soddisfazione, per te magari cioè, la soddisfazione è qualcosa di... relativo. No, più che altro è passeggero, cioè tu sei soddisfatto quando tu più che... magari sei contento di quello che c'hai e quello può darti soddisfazione. Sì, comunque una volta che c'è quello non sei felice perché... No, vabbè, noi entriamo in un altro tipo di... È un altro discorso questo, è un altro discorso. Vabbè, ma nel materiale. Torniamo un attimo, ragazzi. Torniamo al nostro contesto. In particolare, la storia che raccontava Rabban Yochanan Ben Zakkai, che diceva: ma lui gli ha fatto girare 40 anni nel deserto, e tu gli pensi che gli vuol fare vacanza, eccetera. No? Quello che stava dicendo Rabban Yochanan Ben Zakkai è: tu che dici che Mosè amava gli ebrei e voleva dargli più vacanza, hai sbagliato. Se lui amava gli ebrei, gli dava meno vacanza. In altre parole, il modo per crescere non è distribuendo regali e vacanze e riposi, eccetera. Questo ti fa diventare meno importante. I 40 anni nel deserto, come per dire, la fatica, e le varie difficoltà che hanno dovuto superare, i vari ostacoli che sono venuti in fronte e davanti, tutto ciò che hanno dovuto conquistare e che non gli è stato proprio regalato su un piatto d'argento, è quello che gli ha fatto davvero diventare qualcosa. Tornando al tema originale, no, che parlavamo dell'educazione. Era quello il gesto d'amore. Questo era esattamente, questo era il gesto d'amore. Il gesto d'amore, per esempio, di un genitore nel confronto di un figlio, se si esprimesse solamente nel regalo che gli dà, nella vacanza che gli fa fare, non è un amore sano. Perché? Perché è un amore che lo rovina, che è troppo, tra virgolette, troppo bene fa male, che non è neanche un bene. Se lo aiuta a capire che si deve sforzare, che si deve impegnare, che deve faticare per guadagnare, per crescere, in generale, ma poi chiaramente qui parliamo del contesto dello studio della Torah, significa sono abituato a studiare la Torah una volta a settimana, faccio lo sforzo e adesso mi abituo a farlo due volte a settimana. Quando quella diventa l'abitudine non è più uno sforzo, allora si richiede uno sforzo maggiore. Cioè vedi, il parametro è molto fluido, è molto in base, è relativo alla situazione, alla, alla storia della persona, al proprio percorso, a tutto ciò che è l'esperienza di vita della persona. In base a questo si basa il concetto dello sforzo, dell'impegno che ci si mette, del girare 40 anni, ognuno nel suo modo, con i suoi tempi e con le proprie difficoltà che supera. Questo era l'amore che Moshe Rabbeinu ha dimostrato nei confronti degli ebrei, che HaKadosh Baruch Hu in realtà ha dimostrato. Il fatto di far capire a noi che dobbiamo arrivarci con il nostro sforzo, con le nostre forze. Che è questo che davvero ci cambia da dentro. Concludo con una cosa interessante. Noi conosciamo benissimo nella Torah i figli di Aaron, perché i figli di Aaron sono quelli che gestiscono la Keunah, il sacerdozio, e i loro figli a loro volta ereditano la Keunah, ereditano il sommo sacerdozio, la Keunah Gedolah, i Kohanim Gedolim, eccetera. E fino ad oggi abbiamo i Kohanim che sono nipoti di Aaron, discendenti di Aaron. Chi erano i figli di Mosè? I Levi. Non sono scritti? Sì, gli Esere, sì. Sono scritti, però dove sono andati a finire? Chi sono i loro figli? Chi sono i loro nipoti? Cioè, Leviti, no? Sono Leviti come tanti altri Leviti, non è che c'è qualcosa di particolare. Non sono Leviti particolari. La tribù di Levi è una grande tribù, dove ci sono tante persone, tra cui i nipoti di Mosè. Dove sono stati persi? Non hanno, non hanno fatto lo sforzo esattamente. Perché? Perché il padre era Mosè, quindi vivevano nel naturale. Quindi. Ancora di più, vero, ma ancora di più. Non sono stati in Egitto. I figli di Mosè sono nati e cresciuti fuori dal contesto di fatica, di problema. Se vi ricordate, Mosè si era sposato a Midian e lì è rimasta la sua famiglia. Quando lui è andato in Egitto, prima si è portato la famiglia. Il Midrash racconta che Aaron gli è venuto incontro e ha detto: qui gli ebrei sono schiavi, tu vuoi portare nuovi schiavi per il faraone? Cosa stai facendo? Mandali a casa. Tu hai una mansione, una missione per la quale devi essere in Egitto, ma la tua famiglia non c'entra niente. Giustamente. Ma, dall'altra parte, loro rimasero in quel contesto. E la mancanza di tutto questo percorso fece sì che, in un certo senso, c'era meno impegno, c'era meno coinvolgimento e è rimasto meno da loro rispetto a quello che è rimasto da altri, in questo caso i figli di Aaron, eccetera, però in generale. Chi non ha faticato per una cosa, non l'apprezza. È normale. Allora, un ebraismo, portandolo al nostro contesto odierno, un ebraismo facile, un ebraismo che è segnato più che altro da sentimenti belli, cose light, cose facili, cose solo questo non l'ho detto. Il problema è che un ebraismo che è solo di questo tipo non crea una sfida nella persona, e di conseguenza la mancanza della sfida e quindi la mancanza dello sforzo e l'impegno non ha un effetto duraturo nel tempo. Ciò che invece rimane duraturo nel tempo è qualcosa per il quale ti sei dovuto impegnare, ti sei dovuto sforzare. Allora, oggi che si cercano tante soluzioni, come faremo per salvare l'ebraismo, come faremo per salvarci dall'assimilazione, come faremo... Possiamo fare eventi, possiamo fare serate, possiamo fare tante cose, ma soprattutto dobbiamo impegnarci. Se l'ebraismo per noi è qualcosa per il quale siamo pronti a fare uno sforzo, allora abbiamo molta più garanzia che sarà trasmesso ad un'altra generazione. Se invece rimane una cosa culturale, un'etnia, una bella cosa da condividere, da approfondire in questo senso, allora cosa succede? È difficile che vada avanti alla prossima generazione. E quindi impariamo, e voi grazie a Dio siete su una buona strada, di davvero sforzarci per ciò che è il nostro ebraismo. Non è da dare per scontato, è da apprezzare. Come si apprezza? Impegnandosi, approfondendo più di quanto siamo abituati, sia di quantità che di qualità, ognuno secondo i propri parametri. E questo arriva, la cosa interessante, Bechukotai, si lega alla parola Bechukotai, che abbiamo detto statuto, normalmente il significato è statuto, ma in questo caso Rashi dice significa Amal Batorah, cioè faticare nella Torah, che non è la traduzione normale, ma se pensiamo Bechukotai è legato anche alla parola Hakikah. Hakikah significa in ebraico incisione, come per incisione in una pietra. Cos'è che ci sta trasmettendo con questo la Torah? Che quando noi fatichiamo nella Torah, la Torah diventa incisa in noi. Inciso significa diventa una cosa. Perché non si può dividere tra la pietra e le lettere che sono incise nella pietra, è un tutt'uno. Non è come l'inchiostro che va ad essere un elemento che si unisce alla carta che è un secondo elemento, e si potrebbero anche separare o cancellare. L'incisione fa parte della cosa stessa. Quando noi fatichiamo nella Torah diventa incisa in noi, diventa una parte di noi e diventa una cosa che automaticamente si trasmette.